ed appena quando spira Zephyr retto clore in seno. Ed appena quando spira Zephyr retto clore in seno, dormi in seno. Mi rapita quando spira Zephyr retto clore in seno, clore in seno. Tener non degno che rapita non sia sino dall'aura la cara anima mia, il mio tesoro. Sei volto così vago, sei così bella e mado, mai non formò cupido. Non sia dunque stupor s'amor geloso, di Zefiro legger mi fanno i baci. Mentre chi arde un tal volto paventa che anche quegli venga tolto. Del mio cor sarei geloso, se il mio cor non fosse mio. Del mio cor sarei geloso, sin mio cor non fosse mio. Del mio cor sarei geloso, sin mio cor non fosse mio. Del mio cor sarei geloso, sin mio cor non fosse mio. Che fuggendo dal mio petto vola in sende il vago oggetto sovra l'alli del desio, sovra l'alli del desio. Del mio cor starei geloso, se il mio cor non fosse mio. Del mio cor starei geloso, se il mio cor non fosse mio. questo che ronta del mio gel, che non è poco, prende sempre più forza il mio gran fuoco, il mio gran fuoco, il mio gran fuoco.